Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce eccezionale, tra virgolette, nel senso che non è mia trasmissione, però insomma mi hanno voluto qui a fare compagnia a Maurizio questa sera in questa puntata dedicata al rock, questo appunto è la fascia oraria chiamata Rock Wave. Questa è la voce di Agostino Spolaore, ma soprattutto è Maurizio che con Agostino ci farà conoscere, anzi vi farà conoscere questo gruppo che si chiamano Super Lovers, con l'album On the Road. Però prima alcuni dati tecnici. Questa, dicevo, è la vostra emittente preferita in questo momento, Blu Radio Veneto. Questa è la radio che vi propone musica rock spessissimo durante la settimana. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito, ve lo ricordo, www.bluradioveneto.it. Abbiamo la pagina anche su Facebook, ovviamente semplicemente Blu Radio Veneto. Oppure, se volete qualche maggior dettaglio sul rock, curato dal nostro direttore artistico Alberto Brisco, che salutiamo. E andate su Blu Radio Veneto Rock Wave. Vi ricordo lo streaming per chi volesse ascoltarci in diretta, diciamo via web. Allora lo streaming basta semplicemente andando nel nostro sito, lì trovate la famosa ormai striscetta rosetta con scritto streaming, e sotto c'è quella freccia nera piccolina sulla sinistra da cliccare per ascoltare la radio 24 ore su 24. Ultime due cose, i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre il numero di cellulare per mandare i vostri sms, anche per questa sera, per salutare questi amici, vi ricordo, è il 346 23 20 033. Buonasera Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera ai Super Lovers direttamente con Furia Rock da Ravenna. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Bene. Come va? State bene? Tutto bene, un viaggio lungo, okay. Vero? Per suonare si fa sempre volentieri. Esattamente, una cosa fondamentale, per suonare si fa sempre volentieri e ci si superano tutti gli ostacoli, diciamo così. Da cui il nostro nome del disco, insomma, On the Road. Esatto. Perché siamo sempre On the Road. On the Road, sempre sulla strada praticamente, musicalmente parlando. Benissimo, questo è il vostro primo album, l'album effettivo, l'album importante. Ma come nasce il progetto? Intanto ci presentiamo. Il cantante. Ok, stasera siamo in formazione ridotta, però c'è il cuore della band, perché è nata da queste due persone. Cioè? Da me, che sono Davis Tagliaferri, che canto e suono la chitarra acustica. Io sono Fabio Buzzi. Che suoni la chitarra praticamente. Chitarra, sì. Stasera è acustica, però è sempre una chitarra, chiaramente, certo, fondamentale. Certo. Gli altri due componenti della band chi sono? C'è allora Francesco Preziosi, che è il nostro bassista, in arte Elton, che salutiamo. Perfetto, salutiamo Francesco. Ha a che fare con Elton John. E poi c'è... non hai sentito? Ha a che fare con Elton John perché ci assomiglia molto. Ah, perfetto. Un po' nel look e un po' anche nel... diciamo nei tratti somatici, ma non diciamo nei piaceri sessuali, si può dire, ecco, insomma, diciamo che... Questo è un altro partito. Lo diciamo per le fan di Francesco, che magari sennò si tagliano fuori e gli cala l'ascolto, ecco, insomma. Poi c'è Enrico Liverani alla batteria in questo momento, che non è però il batterista che ha suonato nel disco, perché nel disco ha suonato il grande Mattia Guidi, che però per ragioni varie ha dovuto uscire dalla band perché aveva anche un altro progetto parallelo, e quindi abbiamo subito preso Enrico Liverani, che era un nostro carissimo amico, che è assolutamente all'altezza del disco e ha suonato benissimo, e sta suonando nel tour e sta suonando nelle prove. Quindi nell'album ufficialmente c'era Mattia, però nel tour praticamente sì, c'era Mattia, che ha scritto i pezzi comunque. Certamente. Con noi, e ha partecipato agli arrangiamenti, a tutto, ecco. Quindi l'idea è stata di voi due per formare i Super Lovers praticamente. Sì, sì, è stato un aggancio, è stato un... Sì, vi siete trovati? Abbiamo qualche idea, Davis le sue, io le mie, siamo partiti da un po' di cose sue, le abbiamo arrangiate io e lui, e poi abbiamo deciso di fare un quartetto elettrico, rock, e piano piano è nato il disco. È importante nascere un disco, fare uscire un disco è una cosa fondamentale, bellissima secondo me. Cioè, diciamo che eravamo entrambi impegnati in progetti cover, dove cantavamo la musica degli altri. Di cosa? Quale cover? Ma da progetti acustici, dove facevamo cose anche vecchie di Jimi Hendrix o dei Beatles. Io sono curioso, cosa di Hendrix? Vabbè, lui è il chitarrista, cappellone. Hendrix. Sono... Beh, insomma, Hendrix... mica cagato i capelli lunghi, mi pare. Dai, Hendrix tutto. Hendrix tutto, va bene, ok, siamo perfettamente. Quindi dalle cover il discorso è un po' ampliato e siete arrivati. Sì, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: ma te non hai niente da dire, è possibile che dobbiamo sempre cantare la roba degli altri? Non hai qualche cosa nel cassetto che hai voglia di tirar fuori? E detto: ma qualcosa ce l'ho, allora una sera ci vediamo per una pizza e una birra e ne parliamo. E quella sera lì è nato il primo pezzo di questo disco, quindi la punta di questo iceberg che è On The Road To You. Questo Goodbye, forse quello è il primo pezzo, ne devi quello? No, no. Beh, il primo pezzo è stato un altro, però un poi altro. Ne sono usciti altri. Goodbye, certo. È quello che apre il CD, certo. Però diciamo che il brano è l'unico brano che poi è presente nel disco in italiano che si chiama Binari. Che è l'ultimo. Esattamente. L'abbiamo messo in fondo anche se è stato il primo a essere stato scritto. Dopo per esigenze discografiche, diciamo, abbiamo deciso di fare il disco in inglese perché volevamo un po' uscire dai confini italiani. E con l'inglese sicuramente è una lingua internazionale, mondiale, e possiamo attirare più attenzione. Certo. Io ho sentito più una volta il vostro disco, è un disco che è forte, potente, però nello stesso tempo lascia lo spazio alla melodia in qualche momento. Ci sono dei ritornelli accattivanti, secondo me. Grazie. Quindi l'ho sentito così. È stato cantato con passione. È stato cantato con passione. È molto personale, perché tutti i testi sono storie vere che mi appartengono, che ci appartengono. Cantiamo dell'amore, quindi quando canti dell'amore lo canti con sofferenza, però dietro c'è sempre l'amore, quindi c'è sempre comunque un taglio melodico, perché deve arrivare, insomma, deve emozionare. Certo, noi, io e il direttore artistico Alberto, abbiamo sentito, ci è piaciuto molto, allora grazie. Li invitiamo e bene o male siete arrivati, questo grazie. È molto positivo. È un onore, grazie. Grazie a voi, sicuramente. Allora, cosa dice Agostino? Apriamo la finestra col primo pezzo dell'album che hanno scelto i ragazzi. Tu, and David, scusa, tu cosa avevi scelto? Io ho scelto il pezzo di apertura che è Goodbye, sì. Dove parla, diciamo, del modo difficile a volte di dire addio, arrivederci a una ragazza che ti ha comunque segnato il cuore e in un qualche modo cerchi comunque di mettere un punto a una storia che è finita, anche se non credi che sia finita. Ok, l'ascoltiamo. I can go anywhere, overrating every way. I can smile, I can cry, rising my face again. I can talk to myself, I can say that's okay. Run away with my mind, waiting for the green light. I'm still trying to say goodbye. Say goodbye for the last time. Live without you, I can't live without you. Live without you, I can't live without you. I can walk all along, I can say that I'm strong. I can sleep with another girl, but miss another one. I can turn off the phone, sitting in my brain alone. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sono le 22:18 di questo 18 maggio, guarda caso, 19 in questo momento, vabbè, di questo 18 maggio 2011. Siamo qui con Fabio e Davis dei non mi ricordo più, Super Lovers. Memoria che non tiene più. Allora, Maurizio, cosa ci stavamo raccontando? Sì, stavamo raccontando dell'inizio di questo pezzo che apre il trittico dei tre pezzi abbastanza, non dico violenti, ma potenti, facciamo dire questo. Allora si parlava con Davis all'inizio, cioè mentre il pezzo andava, che ho descritto così il pezzo dicendo che è un inizio potente perché è una specie di dichiarazione di intenti, e il nostro vocalist mi spiegava il perché della dichiarazione di intenti, adesso la spieghi in diretta anche alla gente che ci sta ascoltando. Ma Goodbye racchiude un po' il cuore del progetto Super Lover, perché c'è un riff portante di chitarra che è un po' che rappresenta un po' Fabio, sì, infatti ha portato questo riff, come succede spesso in sala prove nei gruppi, si porta un'idea, un riff di chitarra in sala prove e subito in maniera istintiva, quindi quel pezzo è nato one shot, è nato la stessa sera. Ah, però. Mattia ha subito sentito dell'energia in questo riff e ha messo subito una ritmica che ci ha preso tutti. Il bassista dopo è andato dietro la batteria e io ho subito sentito che era un pezzo che avrei tirato sicuramente fuori un bel testo e una bella linea melodica. Quando c'è questa magia, perché a volte stai su un pezzo anche dei mesi e non esce niente, il pezzo vuol dire che è un pezzo magico, e per noi è stato un po' un inizio, ecco che l'abbiamo messo all'inizio del disco. Quindi è una cosa quasi suonata di getto praticamente. Di getto, sì, di getto. Questo è venuto fuori così, proprio ci guardavamo in faccia e ci inseguivamo uno con l'altro e il pezzo è venuto, quindi... E Mattia, secondo me, nel disco ha un po' un andare giusto zeppelliano, a mio parere. Non so se sei d'accordo. Lui viene da quel Bonzo Docet, da quel ramo lui. soprattutto a CDC, le Zeppelin, quindi anni 70, 80, rock anni 70, soprattutto. Ecco. Beh, è una bella cosa, secondo sì, me. Sì, sì, sì. Per un batterista. Per un batterista è fondamentale muoversi, dare il ritmo, perché il batterista dà il ritmo a tutto. È il treno della band. Il treno della band, col bassista, chiaramente. Col bassista, però qua c'è il cantante che anche tira tutte le fila, o sbaglio, Davis? Ma diciamo che i ragazzi dicono che sono un personaggio carismatico, che trascina. Esatto. E io cerco di trascinare più che posso, perché siamo tutti nella stessa barca, quindi cerco di portare la barca il più avanti possibile. No. Una barca che riesca ad andare avanti praticamente. Sì, però diciamo che in un gruppo comunque ognuno è fondamentale. Certo, ecco. Certo. Voi siete un gruppo di quattro, è fondamentale. Tre è si dice che sia il gruppo fondamentale del rock, il trio, perché sì. Ma il quarto non va bene, non va benissimo. Lo beh, tre devono essere tre, dove c'è comunque uno che canta e suona da paura. E quindi esatto. Non tutti sono lo Sting della situazione. Sì, quindi... Esatto, o Sting o i Cream ancora meno, io non lo sono, ecco, quindi... Ma insomma ti dai da fare, è importante questo. Quindi c'era una dichiarazione di intenti bella, ottimale, per portare avanti un discorso di tutto l'album. Sì. Goodbye ha aperto la finestra, sì. Ha dettato la strada. Sì. E via, siete andati avanti praticamente. Sì, alcuni pezzi sono nati in casa, con quelle famose birre e pizza che abbiamo preso io e Fabio. È nato uno scheletro di pezzo che poi in sala prove con i musicisti li abbiamo arrangiati e sviluppati. Goodbye è un pezzo che invece è proprio nato in sala prove. Esattamente, così immediatamente. Distinto. Ecco. Adesso voglio ritornare sull'argomento, tu me l'hai spiegato, ma come si crea un pezzo da parte vostra, oltre alla pizza e alla birra? Come lo scrivete, non so, su un foglio di carta, o l'idea vi viene, la captate su un registratore, come si usava una volta? Dimmi, Fabio. Ci sono molti metodi, ognuno ha un po' i suoi. Io penso che sia importante avere un'idea valida. E questa idea valida può venire in ogni momento, può venire in sala prove, può venire quando sei in giro, può venire quando sei da solo. È la piccola magia artistica, spesso è qualcosa che succede, qualcosa che vedi o il momento che hai di pensare a una cosa che è successa, ti viene l'idea, cerchi di fermarla, può essere che la scrivi in un foglio, può essere che la registri nel telefono, se sei in sala prove spesso hai comunque un microfono aperto, quindi la registri lì. Poi c'è il momento del lavorarci sopra, che per quanto mi riguarda avviene un po' di tempo dopo. Ah, ho capito, non subito. Voglio essere sicuro che l'idea sia comunque valida. Magari lì per lì mi sembra bella, poi dopo mi piace meno. O la cambio, ci si lavora e poi il pezzo può nascere. Puoi lavorarci da solo, puoi lavorarci con qualcuno, oppure puoi lavorarci in sala prove. È un lavoro democratico, cioè ci sono, siete tutti d'accordo, ci sono delle discussioni giuste musicali per l'andamento del pezzo. Diciamo che in questo disco qui c'è stata questa magia strana che tutti i pezzi che venivano portati in sala prove in un qualche modo piacevano a tutti, e quindi non c'è stato mai qualcuno che ha detto questo pezzo non mi piace o no. Poi c'è chi dà il suo parere su un giro, una strofa, chi dice qui mettiamo un fa invece che un sol, o rendiamo la ritmica più incalzante, insomma queste cose qui può succedere, ecco. Sì, però si arriva sempre a un comune d'accordo, insomma. Si trova una via. È il bello. È bello, sì. Perché cioè, da solo è difficile portare una cosa proprio dall'inizio alla fine a un buon risultato. Invece lo scambio, magari poco, magari un feel di batteria diverso, un giro di basso leggermente modificato, un coro, qualcosa, ti cambia tutto tantissimo, quindi... Ma l'importanza del gruppo è questa. E poi uno potrebbe aver lavorato su un pezzo tanto da solo, essere convintissimo di avere una gran cosa, gli altri ti dicono guarda che non è così, allora... Giusto. Ad esempio, a me succede spesso, siccome io non nasco come chitarrista, ma insomma, ho sempre cantato e basta, quindi sono anche abbastanza limitato sul manico della chitarra. Sono un po' un esecutore dei compiti che mi dà Fabio. Però dentro di me, nel mio corpo, vivo una grande musicalità, perché comunque con la voce posso comunque cantare qualsiasi cosa senza essere un tecnico, diciamo, di un chitarrista. Certo, ecco. Ho capito, certo. Poi ecco, ho difficoltà a volte magari a riportare questa musicalità sulla chitarra, perché non conosco lo strumento come conosco la voce. Okay. E quindi cosa succede? Che arrivo magari in sala prove da Fabio con 3 accordi di quelli da ombrellone che si suonano in spiaggia, sì. Così. Voi che siete con quelle bande da Ravenna, sono sempre grande... belli. Certo. E sembrano 3 accordi stupidi. E mi dice magari ma vabbè non avrei un sol, cioè non hai scoperto niente. Poi quando gli canto sopra lui dice ok, è un po' diverso, e dopo lui sotto questi accordi me li prende e me li stravolge e aggiunge una settima, una swiss, o allarga 2 dita sul manico della chitarra, e io sento un mondo nuovo che mi porta a cantare ancora meglio e a fare altre cose. Quindi è un continuo venirsi incontro, aiutarsi e stimolarsi. È bello quello che hai detto, è molto bello, perché si capisce, si riesce a recepire come si crea un pezzo, che non è solamente l'inizio di scrivere il pezzo, accettare, poi lo sviluppo, tutte le idee che vengono fuori, questo è importante secondo me. Ok, 22-26, Agostino, cosa facciamo? Mettiamo un pezzo da disco o facciamo suonare subito i ragazzi? Decidono loro. Cosa volete fare? Vabbè, visto che siamo in radio e la radio è viva, quindi suoniamo. Di suonare dal vivo, dai. Cosa ci fate sentire? Allora, facciamo una ballad, forse è uno dei pezzi più tranquilli del disco, ed è un pezzo che è stato anche apprezzato moltissimo dai nostri fan, perché è una ballad fresca. Si chiama Maxine. Che è molto bella. Io l'ho scelto come... Maxine è il nome di una ragazza, certo, a cui è dedicato questo brano. Ok. Rockway, l'onda del rock. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Comes from another time. She dresses flowers and drinks red wine. She smokes small leaves in Jackie's garden of wheat. She has 4 dogs with a hand they are lost. I need no trade. The only things I want inside is Maxine. She holds me tight between the sheets. She's leaping to my pleasure with a lips of Vaseline. So turn off the light. And she kisses me goodnight. She works in my dreams. She's in everything. I need no trick. Her ecstasy. The only things I want inside is Maxine. Flying somewhere but I hope she comes back. She's flying to her past, but I hope she comes back. She's flying, she's flying, she's flying. But I hope she's come back. But I hope she comes back to me. To me. I need no trail. Her accent's in. The only things I want inside is Maxine. Only name I wanna hear is Maxine. The only song I wanna sing is Maxine. The only juice I wanna drink is Maxine. Maxine. Maxine. Maxine. Svolta. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci, eccoci. Abbiamo sentito questo pezzo che è molto bello, una ballad, come abbiamo scritto, sì, nella recensione. Io ho scritto anche che Mattia dava molto stop and go nel pezzo, nel disco praticamente. Sì, sì. Questo più non esistono, siamo con due chitarre acustiche. E io l'ho trovato molto west coastiano. So, Agostino, se sei d'accordo. Perché? Perché la West Coast e due chitarre acustiche, mai mandato verso la West Coast, visto la California. Cosa dici, Davis? No, no, è vero, è vero. Beh, siamo a Padova, però insomma, l'idea, cioè il sogno, l'immaginazione arriva. Sì, sì, sì, sì. No, ma è un pezzo infatti fresco, estivo, un pezzo della banda. Eagles Docet, insomma. Eagles Docet, sì. Mattia gli ha trovato la giusta ritmica, perché non è facile suonare una ballad e farla rendere. Esatto. Ha trovato una ritmica un po' particolare che ci sta veramente. E qui, fatto in versione acustica, assolutamente dal vivo, sono le 22:32, sì. Quindi la versione è molto bella, molto accattivante, possiamo dire, sì, così, che trasporta. Tra l'altro apro una piccola parentesi su questo pezzo, che c'è un DJ comunque conosciuto, che saluto, che si chiama Geo, che ha sentito tutto il nostro disco, ne è rimasto entusiasta e ha preso proprio questo pezzo qui e sta facendo un remix e farà una versione dub, quindi una cosa anche strana che siamo tutti curiosi di sentirla, quindi... Bene, una cosa positiva. Sì, sì, 100%. La musica si diffonde sotto forme diverse, quelle positive. Una cosa volevo chiedervi: oltre ai quattro che abbiamo detto che avete suonato, che ha suonato nel disco, chi ha partecipato oltre ai quattro? Ci sono qualche altra persona che ha dato una mano? Sì, ci sono degli ospiti chiamati perché ci sono venute delle idee e abbiamo voluto mettere nel disco. Quindi c'è Buga, che è Massimo Buganè, che tra l'altro si sposa il 2 giugno, quindi gli faccio gli auguri. Certamente. Sarò a suonare al suo matrimonio. Benissimo. E l'ho chiamato a fare lo scratch in Orange Game, che è un pezzo tra quelli duri, e in fondo richiamava un po' questa sonorità, un po' Incubus, un po' Rage Against the Machine, quindi cercavamo uno scratch, lui tanti anni fa lo faceva con i vinili, certo, ormai oggi non si usano più, e quindi l'abbiamo chiamato a fare questa cosa ed è venuta molto bene. Poi c'è Vanessa Vaccari, una cantante che ha una voce comunque molto pulita, acuta, e in un pezzo che si chiama I'm on Sale Today, che dopo sentirete, certo, sentiremo dal vivo, mi piaceva l'idea di cantare questo pezzo come se si parlasse a una donna e questa donna fosse lì in ascolto e parlasse insieme a me, e quindi l'abbiamo cantata proprio a due voci, quindi è una cosa molto, molto bella come gioco. E poi niente, ci sono diciamo degli ospiti fantasma, nel senso che non è gente che ha suonato, però è gente che ha partecipato a, diciamo, alla riuscita di questo disco, all'idea, diciamo, ecco, al progetto. C'è Omar Machiavelli, che è un fotografo bravissimo di Milano, che ci ha fatto le foto che sono presenti nel disco e tutto il servizio fotografico. C'è la Greta Bechiri, che è una mia amica che fa la stilista e fa dei disegni che li ha messi dentro il bootleg dell'album. E poi c'è il grandissimo Luca Bignardi, che è l'ingegnere del suono, che ha curato proprio tutti i suoni, il mixaggio e, suoni molto curati, e la registrazione del disco, che come disco autoprodotto suona veramente molto bene. Dobbiamo dire questo, il disco autoprodotto, però la produzione è ottima, praticamente gli arrangiamenti sono ottimi, proprio si sente bene, è quello importante. Quando il disco si sente bene, si supera non ci sono delle difficoltà, si superano tutte le difficoltà quando un disco si sente bene, secondo me. Cosa dici, Fabio? Speriamo. Speriamo. Okay. Ce ne sono tante da superare. Sì, tante da superare. Sì, sì. Ma sì. Poi hai più soddisfazione una volta superate, però, Sì, sì. Non sei molto No, sono quelle dopo da superare. Non mentre fai il disco, è bello perché fai il disco. Certo. Quelle dopo, vai. Ok, 22:34. Adesso facciamo un pezzo da disco. Vuoi se non è dal vivo? Sì. No, facciamo un pezzo dal disco, vai. Facciamo sentire I Can Feel, che è un'altra pseudo ballad, molto pseudo. Ecco, facciamo una cosa che facciamo spesso dal vivo, dove abbiamo fatto il disco in inglese, quindi non tutti magari oggi l'inglese cantato arriva in diretta, uno magari solo deve leggere o ascoltare, ecco, e quindi molte volte dal vivo traduco alcune frasi in modo che la gente capisca un po' di cosa parla la canzone e si faccia anche coinvolgere da questo viaggio, che per noi ogni canzone è un viaggio, insomma, ecco. Okay. Questa si chiama I Can Feel ed è una canzone un po' di una persona che, avendo provato avendo vissuto tante storie d'amore, trova una persona e ha una specie di illuminazione e vede che è la persona giusta. E, infatti dice: lei è la mia ragazza, la mia amante, la mia migliore amica. Lei è amabile ed è tutto quello che un uomo può sognare. Io sono freddo, nervoso e sono anche un po' scettico. Come posso dire che il mio cuore l'ho messo in freezer, il mio cuore è congelato da delusioni e sto cercando di far di tutto per guardare avanti e non pensare all'amore. Poi, se chiudo gli occhi, il mio destino mi passa davanti e vedo che quella ragazza è quella giusta. Questo è un po' il tema, diciamo, di questa canzone. Insomma. Mattia qua è molto zeppeliano, non l'inizio, in nota iniziale, è molto zeppeliano. Qui sì, è un pezzo che ha una gran pacca, però quando entra la strofa ricorda quasi un disco di Maroon 5. Sì, dopo cambia. È un po' più pop, perché il riff invece è veramente molto cattivo. Ecco. Esattamente. È bello anche questo mix qui. Insomma. Certo, un cattivo positivo però. Secondo me. No, un cattivo positivo, cioè c'è un giro di chitarra che tira, capito? Però poi quando entra il cantato ci si siede e certo, si ascolta. Certo. Ecco. Ok, sentiamo allora. I Can Feel. perfect bed where I like to rest. I can feel everything when I close my eyes. I can see my destiny. I'm sure that girl is Sono impazienti di suonare. Sì, sì, abbiamo sentito, ma è tutto dal vivo, ragazzi, assolutamente dal vivo, è bello così. Allora, vi ricordo sempre i nostri numeri, se volete contattarci qui in studio oppure con gli sms, vi ricordo lo 049-875-6423, invece gli sms è il 346-2320-033. Questa è la voce di Agostino Spolaore, assieme a Maurizio Calzavalla, stiamo cercando di conoscere un po' di più questa band di Ravenna che si chiamano Super Lovers. Prima però di continuare, vi porto dei saluti da parte di Raffaella che vi sta ascoltando e dice che le vostre chitarre sono bellissime. Grazie Raffa. Grazie. Ecco, un bacione alla Raffaella. E poi c'è un batterista che vi sta ascoltando da Roma, si chiama Maurizio, che tra l'altro oggi fa anche compie anche gli anni, quindi happy facciamo birthday. Ecco, magari poi gli dedicate anche una canzone se volete, e assieme a, ovviamente, alla moglie, l'Anna Maria, insomma, mi stanno ascoltando da Roma. Bene, salutiamo allora anche la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, sono le nostre affezionate ascoltatrici da sempre, le nostre rocchettare, possiamo dire questo. Parliamo di questo pezzo che è scarno essenziale, zeppeliano, almeno con Mattia all'inizio, poi le cose si sviluppano, Davis, come tu mi hai parlato a microfono spento, si sviluppano un po' alla, non dico alla pop, però si sviluppano in modo diverso. Sì, è un brano che una sera, finite le prove, Fabio mi ha detto vieni in macchina che ti faccio sentire qualche idea. Mi ha fatto sentire questi tre pezzi. Io vado sempre istinto quando scelgo, cioè la musicalità del pezzo, poi magari mi posso sbagliare, però negli ultimi anni insomma mi ha sempre portato bene. Certo. Mi ha fatto sentire tre pezzi, il primo l'ho guardato, gli ho detto lascia stare, il secondo era questo qui e sono stato zitto, me ne ha fatto sentire un altro, gli ho detto ma non mi dice niente, anche cattivo forse, che a volte mi dà anche dello stronzo, se si può dire, perché sono un po' troppo diretto. E quindi dopo ho riascoltato il secondo e c'era proprio il riff, che era un pelo diverso iniziale, era un po' più lungo, c'era questa, questa parte pop proprio dove ho cantato la strofa che mi piaceva molto, questa questa cosa qui mi piaceva molto, e poi c'era questo ritornello alla Pearl Jam. Me la fai sentire, Fabio, con la chitarra acustica? E qui io ho sentito questa cosa e mi venivano in mente, vai avanti a suonare, mi venivano in mente i brani dei Pearl Jam del primo disco di Ten. E qui io proprio mi è venuta fuori questa cosa che faceva, e quindi di qui ho detto no, qui c'è un pezzo sicuro, e infatti sono andato a casa e subito mi è uscita un po' la mezza melodia e da lì è nato il pezzo. Quindi... benissimo. Cosa, a proposito di Pearl Jam, cosa ne pensi che Eddie Vedder ha fatto un disco di ukulele? Bellissimo. Hai sentito? Ho sentito, tra l'altro c'è un pezzo che si chiama Goodbye. Esatto, sì, porta fortuna. Ho sentito due anteprima online, è veramente molto bello. Noi l'abbiamo trasmesso lunedì, abbiamo sentito un pezzo, il nostro Stefano Dainese, che è il nostro, quello che cura la trasmissione del lunedì, ha trasmesso un pezzo di Eddie Vedder. Poi, molto interessante, bellissima questa cosa. Non aveva mai fatto niente da solista, da quanto ne so. Ha fatto quel, beh, ha lanciato la colonna sonora di Into the Wild, esattamente, che è un viaggio introspettivo grandissimo. Però secondo me per un cantante come lui, che avrebbe avuto la strada spianata facendo un disco rock, uscire così è proprio coraggioso, molto molto coraggioso, molto. Ma però non ha confini. Per genere hanno sempre fatto tanti dischi diversi in tanti anni, quindi il coraggio non è mai mancato. Hanno tantissime cose da dire, le dicono con tantissima passione, cioè non sono mai scontati. No, esattamente. Se posso dire una cosa, però sono anche un po' avvantaggiati, hanno un nome, è chiaro che Ma perché ce l'hanno? C'è un motivo, ce l'hanno perché alle spalle fatti. esatto, però insomma loro è consentito anche provare, poi magari non piace oppure piace, è un'altra cosa. Sì, e quindi un disco di ukulele, ma ritornato ai Pearl Jam, è ritornato al tuo pezzo, perdono, ai Pearl Jam. Sì, è un pezzo potente questo, non è il più potente, si può dire così, dell'album, però è abbastanza potente, c'è una seconda traccia che già preme sull'acceleratore, e lui fa una specie una solista non da poco. Non so se sia enxiano nella sua mente, però gioca notevolmente. È tutto, è nato di notte. È nato di notte. Beh, Fabio nel disco ha fatto degli assoli veramente molto belli. Dopo sentiremo Julie, dove secondo me ha fatto uno degli assoli più belli che ho mai sentito. Cioè, è trascinante, proprio trascinante quella solo lì. Bene, posso permettermi questo, Fabio? Nel pezzo, nel disco, ho notato che negli ultimi 11 pezzi che compongono l'album, trovi sempre il sistema positivo di trovare un piccolo spazio per elaborare la tua chitarra da solista. Te la consentono praticamente? Sì, evidentemente sì. È una cosa, mica una cosa negativa, una cosa positiva. Cioè una trade union perfetta fra la prima parte, la seconda parte, e nella parte centrale ci sei sempre te che fa qualche assolo. Del disco o no, del pezzo? Dei vari pezzi, spesso e volentieri capita. Pezzo centrale. No, parte centrale. Cioè c'hai sempre il tuo spazio, questo voglio dire. Diciamo che comunque Fabio, per quanto è un chitarrista tecnico, è bravo, quindi poi insegna, quindi ha una responsabilità molto grande, perché insegna dei ragazzini e deve trasmettere passione, quindi ma anche la tecnica, insomma. Certo. Però nella musica a volte è proprio l'idea, e anche due note però messe in quel punto lì fanno la differenza. Ha fatto dei temi molto semplici che però sono orecchiabili, che però ci stanno, sembrano quasi un coro, sì. E invece la chitarra che canta invece di suonare, quindi è una cosa molto bella. Certo, sono perfettamente d'accordo con te. Dunque, cosa facciamo? Adesso andiamo un altro pezzo da live, cosa dici, Agostino? Sì, perché sì. L'atmosfera che riescono a creare loro è veramente splendida, queste chitarre, anche quell'attimo che hai fatto poc'anzi di quella versione quasi per genere, è bellissima veramente, quindi la dimensione acustica credo sia sempre eccezionale da ascoltare, specialmente poi nelle emittenti, insomma è una cosa molto, come dire, emozionante. Cosa ci proponete allora dal vivo adesso? Facciamo un brano che si chiama I'm on sale today, che diciamo che è un titolo un po' ruffiano, dice sono in saldo oggi, no? Quindi è un uomo che si mette in vendita perché si sente un po' usato, e un po' gli piace essere usato e usare. E, la frase, un po', leggo un po' del testo, dice dice sono stanco, guardami, sono un ragazzo cattivo, ogni cosa che mi passa nelle mani brucia, coprimi coi tuoi baci il veleno, è quello che mi merito, sono stanco di collezionare ricordi, sono stanco di inseguire un'inutile perfezione, sono stanco di sentirmi in colpa per quello che avrei potuto darti, ti ho giocato tra le lenzuola e l'amore mi è scivolato tra le dita come sabbia. Questo è un po' il succo di questa canzone. E lui dice: sono in salto oggi, seguimi, credi in me. Quindi c'è sempre un po' questa contraddizione di speranza e di rassegnazione. È un brano molto bello, molto americano, diciamo. Potrebbero anche, oltre confine, oltre mare, prendersi questo pezzo magari in uno di quei... Questa compilation in, quei che fanno. In quelle compilation, sì. Quei telefilm, sì, americani. Io lo spero, perché lo sento così, sto brano. Beh, no. Molte volte me lo metto su in macchina e mi faccio il viaggio. Facciamo un invito allora a qualche produttore che lo faccia... Allora, si chiama il pezzo? I'm on sale today. Rockway, l'onda del rock. I'm sad. I'm sad. Look at me, I'm a bad boy. Everything burns up in my hands. Cover me with your kisses. Poison kisses that I deserve. I'm sad. Collecting memories. I'm sad. Chasing uses perfection. I'm sad. Feeling guilty for what I should have given you. I'm sad. I'm sad. Look at me, I'm a bad boy. I let love run through my hands. I played you between the sheets. How many times I push you away from me? I'm sad. Collecting memories, I'm sad. Change the use this perfection, I'm sad. Feeling guilty for what I should have given you. Follow me. Trust in me. I'm on set. Today I'm on sale. Today I'm on sale. Today I'm on sale. Today. Look at me, look at you. I'm all the things you don't want. What you really see today is so all I can give. I'm sad. I'm sad. Come la tradizione di scusate di Rockway, fino all'ultima goccia, cioè, non si taglia neanche l'ultimo secondo del pezzo. Si è scoperto che abbiamo tagliato il pezzo, quindi vuol dire che l'hai ascoltato. Bravissimo, bravissimo. Ok. Era un esame. Volevo sottolineare una cosa, che praticamente Davis faceva una specie di bassista, facevi la sezione ritmica, sì. E Fabio si divertiva, tra parentesi, colorava il pezzo con la sua, col suo giro da solista, è molto interessante. Questo qui, sì, sì. È bello, interessante, piacevole, fatto bene. Si vede che è tutto live. Il live costruito acustico è una cosa diversa dal live elettrico. Però l'acustico è un fascino, secondo me. Qualcuno dice, non so se siete d'accordo, che è più difficile suonare in acustico. Voi cosa dite? Beh, sicuramente in acustico è... È vivo, si sente anche il minimo errore, la corda che frigge, si sente il dito che scappa, si sente tutto, ecco. Però è più viscerale, non so come dire. Poi c'è anche una cosa che io e Fabio siamo partiti così in questo progetto, con quelle famose due birre e pizza e queste due chitarre, ascoltandoci, suonando, e quindi all'inizio i nostri pezzi erano così. Quindi trovarci oggi qua sembra quasi che sia una ripartenza per un nuovo disco, perché siamo di nuovo qui con due chitarre, e quando io e lui ci troviamo con due chitarre acustiche può nascere di tutto. Certo, ma questo era un pezzo potente, con molta grinta, si sentiva, si vedeva. Questo è uno di quei pezzi cantati da Vanessa Vaccari, sì, esattamente, dove c'è la doppia voce. Esatto, io ho scritto giustamente abbiamo scritto nella recensione che parlavo di questo duetto che tu fai. È un duetto che è accattivante. Il duetto con una ragazza è sempre una cosa molto positiva dal punto di vista musicale. Dà un certo fascino, dà un certo colore al pezzo, secondo me. Poi l'idea è stata tua, è stata positiva. Poi gli altri ti hanno seguito, gli strumenti sono inseriti, eccetera. Però il pezzo ha questa dimensione, questa caratteristica. Sì. Cosa dici? Sì, è così. No, è così. Perfetto. Fatto. A proposito della visceralità del pezzo potente, acusticamente era con molto pathos. E per ricordare dei pathos potenti, Jeff Buckley che ha fatto quel concerto acustico, chitarra acustica, sembrava elettrica, ti ricordi? Ecco, vedi. Questa è meravigliosa. Potresti continuare un secondo? Ecco, io l'ho sentita milioni di volte, però anche se la sento un milione e uno, è sempre goodbye. È sempre bella. Alleluia. Goodbye. Alleluia, è sempre meraviglioso. Colgo l'occasione per salutare mia figlia, che si chiama Grace, che ha un anno, che è Grace come un pezzo di Jeff Buckley. Esattamente. Che a quest'ora si è brava, già ha letto che fa la nanna. Certo. Però Grace è un pezzo di Jeff Buckley, un mitico album di Jeff Buckley, l'unico album di Jeff Buckley. Possiamo dire tutto quello che vogliamo. C'è un brano di questo album On the Road to You che ricorda le sonorità Jeff Buckley. È un brano introspettivo ed è un brano importante perché dura 8 minuti e quindi è stato un brano anche un po' criticato, perché oggi, parlando di brani radiofonici o comunque versione radio o quello che cercano di... Prima abbiamo parlato microfoni spenti, no? Del fatto che questa è una radio libera ed è bellissima. Libera veramente, come diceva Finardi all'epoca. Sì, ed è bellissima sta cosa, ecco, perché molte volte quando fai un pezzo di 8 minuti viene visto un po' come una cosa lunga e boriosa e tutto. Invece se uno ha qualcosa da dire in 8 minuti e ha un viaggio di 8 minuti, certo, che gli appartiene, fa un proprio disco, secondo me è giusto che, certo, lo faccia, ecco. Certo. Dicevamo giusto che Stairway to Heaven dura 9:37, esatto. Purple Rain, ecco. Poi non siamo Prince e Led Zeppelin, però nella libertà di parole e di musica è importante che uno non abbia freni. Certo, come giustamente dice anche Agostino, questa è una radio, almeno Rockwave, la parte di Rockwave o la trasmissione live, che se l'artista ha deciso che il pezzo doveva durare 8 minuti e un secondo, deve durare 8 minuti e un secondo, no 8 minuti, 8 minuti e un secondo. Per questa è la realtà delle cose, insomma. Però qui si fa anche così. Non tutte le radio lo fanno. Lo so, però noi andiamo avanti per la nostra strada. Certo, ci mancherebbe, siamo fieri di questo. Certamente, siamo proprio fieri di questo. Ok, no, 22:57, adesso facciamo una cosa di questo genere, Agostino, se sei d'accordo. Mettiamo un pezzo da disco, certo, e poi ci sarà il giochetto solito che proponiamo ai nostri artisti di stasera. Ok, allora cosa avete scelto adesso? Allora, mettiamo su Julie, che è un pezzo che non parla d'amore, è un pezzo che è una vita che volevo fare, perché io ho 36 anni, no? Sì. Ho osservato un po', forse perché ho una figlia di un anno e quindi inizio a guardare anche quello che fanno i giovani. Prima pensavo di essere io il giovane e quindi ragionavo sempre da giovane, no? Non che adesso ragiono da vecchio, però ho voluto guardare un po' la gioventù di oggi. Julie descrive una fase di crescita di una ragazza tipo di oggi, dai 13 ai 18 anni, E ho notato che, l'abbiamo notato tutti, perché poi ci siamo confrontati su questo argomento in sala prove, che oggi i ragazzi bruciano le tappe molto in fretta e vogliono consumare la vita tutto nel primo tempo e non hanno, secondo me hanno bisogno di guardare un po' il mondo con occhi nuovi. Il pezzo infatti dice praticamente, Giulia oggi ha un testo molto bello, mi è uscito bene. Bene. Dice, Giulia ha 13 anni, fuma già sigarette, veste come una principessa e ha già imparato il bacio alla francese, 13 anni. È sempre svogliata e risponde sempre male, risponde sempre non mi interessa. E io spero che abbia voglia di guardare il mondo con occhi nuovi, che è una frase di Baudelaire e che ho citato. Poi dice, forse è così perché viene dalla pietra del rock e quindi si atteggia come una rock, ma dentro può cambiare. Poi dice, Giulia ha 16 anni, quindi è cresciuta, e adesso si fa già le canne, e sta prendendo una brutta strada, ha già fatto l'amore, ha piercing sulla sua pelle e dei tatuaggi che però tiene nascosti perché se li ha fatti, però non ha ancora il coraggio di confrontarsi con i suoi genitori o col mondo esterno. E poi c'è sempre questa frase che si ripete un po' come un jingle, che dice, lei è sempre svogliata, dice sempre che se ne frega, cioè rimanda sempre il confronto con la realtà, e noi speriamo sempre che lei abbia voglia di guardare il mondo con occhi nuovi. Poi arriva ai 18 anni e a 18 anni gioca un po' con la vita, con il rum e con la cocaina, e dice di aver provato ogni cosa, che potrebbe morire oggi, che non c'è più niente da vedere. E il nostro messaggio è sempre quello, è sempre quello di dirgli, ok che vieni dal rock, ok suonare il rock, ma la vita è infinita e non si finirà mai di assaggiarla, quindi cerca di guardare il mondo con occhi nuovi e inizia proprio oggi. Questo è Giulia. She already smokes cigarettes. She dresses like a princess. She starts the French kiss. She's always bored. She answers, I don't care. I hope she wants to see the world with new eyes. Maybe she comes from. Maybe she comes from Radio. Rock Wave, l'onda del rock. C'era quell'attimo. Era uno scherzetto, era uno scherzetto, era fatto apposta, era fatto apposta. Enrico, ci sei? Sì, sono qua. Ciao Enrico. Bella Live. Oh, allora. Ciao Live. Siamo? Ci senti? Sì, sì, sento bene. Ah, ok, ok. Senti anche i tuoi colleghi? Osci? Sì. Qui c'è la Romagna che risponde. Mi pare giusto. Osci. Siamo in diretta? Certo. Sento? Devo fare la voce da diretta. Ciao a tutti. Come va? Stavamo dicendo che sei un grande batterista, che sei geniale e che il tuo arrivo nel gruppo ha portato comunque aria nuova e ti vogliamo bene. Stai piangendo. Sta piangendo. Ti sei commosso? Sì. Sì. E tu, cioè, le tue dimensioni live, visto che suoni i pezzi live, sì. Come ti sei introdotto nella band? Sicuramente positivamente già all'inizio e poi dal punto di vista live intendi? Sì, esattamente. È stato facile anche perché io con Davis già suonavo da prima in altre formazioni. Con Fabio ho suonato qualche volta, anche col bassista, per cui insomma c'è stato l'entrata non è stata scioccante, sapevo già come muovermi, diciamo, per cui è stato semplice, naturale, insomma. Quindi ti sei preso immediatamente, insomma. Sì, sì. Bene, bene, ok. E le dimensioni live sono dure come in alcuni pezzi del disco e anche superano il disco oppure no? Come, scusa, non ho capito. Le dimensioni live dei pezzi, sì, superano anche qualche volta la durezza, la pomposità, la potenza del disco? Sì, ci sono delle cose che sono cambiate, insomma, dal vivo, sì. Poi io ho tendenza un po' a modificare, nel bene e nel male, sì, non riesco mai a fare le cose uguali, anche da un concerto all'altro mi viene... Poi non so se mi stanno mandando degli accidenti loro, No. Però... Ah, è logico che il concerto dal vivo rispetto al CD deve comunque dare qualcosa in più alla gente, quindi ci piace arrangiare magari l'inizio o il finale o anche dare delle, diciamo, non so come dire, però prendere il pezzo e modificarlo, sì, un po', una dimensione leggermente differente. E Live è perfetto per questa cosa perché ha la testa che va a 360 gradi nella musica, spazio in tutti i generi, quindi ha sempre l'idea giusta. Bene, bene, ok. Mi senti? Sì. Perfetto, perfetto. Se parli poco è emozionato. È emozionato. Dai, che al telefono è strano, cioè, non so come. Ma guarda, come che ti stanno ascoltando in pochi, tutto il mondo. Comunque, guarda, Live, ti stanno ascoltando da Venezia Città, da Belluno, da Treviso, dall'Alta Padovana, da Asiago, dalla Valsugana, da Rovigo. Insomma, allora, poco. Vi saluto tutti, Nord Italia. Ciao. Enrico, guarda che in streaming però ti ascolta tutto il mondo, Tutto il mondo addirittura. Sì. In streaming, sì. Allora, devo dire, devo parlare le varie lingue che sono. No, parlare. Basta che dici "Hi, I'm Mr. Live, I play in the Super Lovers." Hi, this is Mr. Live from Super Lovers, play drums. Ciao Live. Ciao, vi saluto. Devo fare il saluto. Ok, ciao mondo. Ci vediamo là. Ciao Live. Ciao, ragazzi. Ciao Enrico, ci sentiamo. Ha chiuso. Allora, dove eravamo? Eravamo rimasti ai famosi dischi da portare su un'isola deserta. Visto che dobbiamo fare anche alcune chiamate dopo, li raccorciamo a tre. Facciamo prima, ok? Chi comincia? Io. Bene, vai Fabio, dai. Tre dischi, dai. Difficilissimo. The Zeppelin 2. Sicuramente, penso che lo conosciate tutti. Perché lo conosciamo tutti, chiaramente. Qualcosa di diverso, che ascoltavo più qualche anno fa, il terzo album solista di Peter Gabriel. Ah, però, che si chiama sempre Peter Gabriel, chiaramente. Tre, esatto. Un altro disco da portare, Led Zeppelin Rock. Prego? Led Zeppelin Rock. Ah. AC/DC. Ah, ecco, No, ce ne mettiamo un quarto. Dai, facciamo un quarto. Kind of dai. Blue di Davis. E per quello andiamo, dobbiamo alzarci tutti praticamente. Hai citato Miles Davis, dobbiamo alzarci dalla sedia praticamente. È un disco significativo, c'è Coltrane, c'è sì, Miles. È un grande disco, sì. Un disco molto innovatore per, da tanti punti di vista. Ecco. Certamente. Questi sono i quattro dischi di Fabio. E tu? Allora, io, a me se è concesso che su quest'isola ipotetica posso portarmi la chitarra, allora non mi porto il disco di Superlover perché me lo canto. Esatto, esatto, questo è vero. Sempre a me se è concesso che sia la stessa isola di Fabio, un po' di rock anni 70 c'è, quindi io ci metto sicuramente una raccolta di Bob Marley, perché sull'isola proprio mi dà gioia, certo. allo spirito. Vero. Adesso che è uscito il disco postumo di Bob Marley dal vivo, sai, è uscito da qualche settimana. Bene, ma ho andato talmente tante raccolte di Bob Marley. Ma è un concerto dal vivo. È un concerto dal vivo. Mai pubblicato precedentemente. Ah, perfetto, perfetto. Poi credo che mi porterei un disco che appartiene un po' alla mia crescita musicale, quindi qualcosa del grunge degli anni 90. Cioè? Dovrei scegliere fra Pearl Jam, Nirvana, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, e sono legato tantissimo a questi gruppi qui, perché proprio sono nato musicalmente, certo, in quella musica ed è quella che mi ha portato a cantare. Potrei dire che ne prendo una a casa e vanno bene tutti, ecco, bene. Quindi se mi capitano i Pearl Jam benissimo, gli Alice in Chains benissimo, ecco. certo. Magari ecco una raccolta, così c'ho un po' tutto, un dentro, po' tutto, perché certamente ne ha fatti veramente tanti di belli. E poi se ne dovessi scegliere un altro ne ancora so, uno, perché io spazio poi tanta musica. Ma è giusto che sia così. Ascolto il rock, ma ascolto anche il jazz, ascolto lo swing, ascolto il pop, ascolto un po' tutto, quindi non so. Lui ha citato Miles Davis. Sì, cioè potrei portarmi dietro anche Frank Sinatra, per perché dire, no? Capito? Cioè, perché ne ho talmente tanti. Centinaia di spero di potermi portare dietro l'iPod, così dentro ho 60 giga di roba. Perfetto, tutta che conosco. Sai tutto. Sfruttiamo la tecnologia, sfruttiamo. Certo. Francesco, tu invece cosa ti porteresti nell'isola? Allora, in un'isola deserta? Ah, sì. Bella Elton! Bellissima, ragazzi, questa entrata di scena. Sentite un po', ma di cose che si possono dire per radio? Dubbiamente, Francesco, okay. Sempre cose che si possono dire per radio. Benissimo, allora sicuramente tanta musica. E quale musica? Ma noi parlavamo proprio di CD, eh? Ecco, sì. Il resto sarebbe tanta altra, però vabbè, non è sì. Musica sicuramente rock anni 90. Quindi dai Pearl Jam, Alison Temple Pilot, ai Red Hot. La porto già io, se vuoi scegliere. Ok, allora passiamo a altro. Poi, cosa che non guasterebbe, ma sicuro qualcuno l'ha già detto, un po' di jazz. Io sono appassionato di Dave Brubeck. Questo non l'ha citato, Baker, Fabio. Miles Davis sì, l'ha citato, ma va bene lo stesso. Ok, invece Dave Brubeck e Chet Baker, perché mi piacciono veramente tantissimo. E poi, diciamo, è un po' di classica, non guasterebbe, giusto per creare un'atmosfera un po' più soft via ogni tanto. E, cioè, meglio classica, poi direi che qualcosina di Beethoven, tipo le sinfonie, non guastano mai. Bene. Di qualcosa invece diciamo dei giorni nostri, tra virgolette, sicuramente Kings of Leon e Arctic Monkeys. Grande Francesco. Ma loro ne dicono 8 di dischi. Sì, un po' a me è 3, così mi avete prendato male per il quarto. No, ma adesso i dischi partono. Ma lui ha il telefono, sai. Adesso i dischi non questo 5 dischi. Adesso solo i dischi musica. Non li compra più nessuno e quindi fanno i pacchetti 5 per 1 in offerta. Diciamo chi è Francesco, perché la gente dice: "Ma chi è sto Francesco?" Chi è Francesco? Francesco è il lovers dei Elton. È il bassista di famoso Superman. Elton. Ma è veramente che assomiglia a Elton John. Assomiglia di brutto, guarda, ma questo disco, ma nel suo cervello che è... No, però effettivamente ogni tanto mi hanno confuso anche con Emanuele Filiberto, non so per quale motivo. Con Principe praticamente. Comunque Francesco, ho precisato che ci assomigli solamente somaticamente e in qualche capo d'abbigliamento, ma non diciamo nelle tue preferenze sessuali. Bene, no, ma questo immaginavo, grazie David. Beh, come si suona il basso dentro ai Super Lovers, Francesco? Bah, normalmente mettendo sulla tracolla e con le dita. Perfetto. Io parlavo dal punto di vista della spirito emotivo, del modo di suonare, cioè di presentarsi. Dal punto di vista emotivo è qualcosa di, come dire, di molto pesante, nel senso che ci siamo, io, almeno io, la cosa di cui mi sono reso conto è che ciò che ci unisce molto spesso sono proprio le esperienze di vita, cioè che abbiamo vissuto in momenti diversi situazioni veramente simili, e quello secondo me si percepisce all'interno delle canzoni. Quindi molto spesso, più che pensare alla nota in più o in meno, o pensare al giro di basso e così via, quello che proprio cerco di fare suonando è caricare emotivamente quello che faccio. Okay. Perché mi rendo conto che appunto c'è qualcosa che ci unisce, che va al di là di quello che stiamo facendo, cioè al di là dell'esecuzione del brano. È chiarissimo, questa è una cosa molto importante. E qui il gruppo si diventa gruppo ancora meglio, secondo me, con queste, sì, con queste, sì, due, infatti, parole. Molto spesso capita che magari arriva Davis oppure arriva Fabio con un giro di chitarra e Davis abbozza una linea melodica con un testo e dice quattro parole, e quelle quattro parole lì aprono un mondo. Cioè, nel senso che in quattro parole a volte basta cambiare solo il nome di riferimento ed è la stessa cosa che magari io mi sono trovato a vivere due mesi prima. Certo, certo. La stessa situazione. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Bene. Bene. Francesco, noi ti ringraziamo della partecipazione e della disponibilità telefonica. Ma grazie a voi. mi raccomando, trattali bene questi ragazzi. Tutti sull'isola deserta. Esatto, tutti sull'isola deserta. L'isola è la stessa per tutti. Sì, sì, sì, sì, sì. Ah, okay. Tanta roba, allora, va bene. Tanta roba, sì. Ciao Franz, vediamo le prove. Ciao, va bene, buonanotte. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, cosa dite? Un pezzo live lo facciamo adesso? Sì, lo facciamo, dai. Dobbiamo facciamo Binari, che è il primo pezzo nato, diciamo, ed è quello che abbiamo deciso di mettere in fondo al disco. È in italiano, cantato in italiano. È un brano in italiano, diciamo che io vengo da un altro disco che ho fatto con un gruppo che si chiama Livida, che era tutto in italiano, quindi mi ero portato a scrivere i pezzi in italiano. E questo sono due accordi, infatti il disco doveva chiamarsi Due Accordi, perché io e Fabio gli portavo sempre due accordi, beh, dove però ci cantavo sopra il mondo, e lui diceva: cavolo, con due accordi si possono fare un mucchio di cose. E gli ho detto: beh, se riusciamo a fare tutto il disco con due accordi siamo bravi. Poi gliene ha messi molti di più e ha fatto bene. Certo. E questo è il pezzo che si chiama Binari e parla praticamente di due persone che vanno nella stessa direzione senza incontrarsi mai, che effettivamente è come binari, se uno ci pensa. È vero. Posso continuare a camminare con te. Su questi binari caldi, proprio come un buon caffè. Note di un sapore strano mi portano sempre qui. Proprio adesso che pensavo di aver trovato i miei perché. L'aria si farà da, non ci resta il tempo di una nuvola. Il tempo di una nuvola, e vedrai, tutto passerà. Thank you. dove vuoi andare, sento il rumore delle parole. Il cammino è ancora lungo e i miei sogni iniziano a pesare. L'aria si farà, non ci resta il tempo di una nuvola. Oh, il tempo di una nuvola, e vedrai che tutto passerà. Resta il tempo di una nuvola. Il tempo di una nuvola, e vedrai che tutto passerà. Sembrato di sentire anche un qualcosa inerente a Blu Radio. Sì, hanno fatto lo spot. Grazie. Era per ringraziarvi che ci avete ospitato qua. E noi siamo molto onorati, sì. Ci avete fatto lo spot, siamo stati... È la prima volta in assoluto che capita, siamo contentissimi di questo. Dimmi. Sì, sì. Ecco, benissimo, siamo... Ok, benissimo. Una cosa molto bella. Questa era Binari, praticamente, sì, l'ultima Binari. Traccia del disco. Io ho scritto su questo, noi della redazione abbiamo scritto, che all'inizio, quando cantavi, mi ricordavi vagamente Manuel Agnelli degli After Hours. Sì, Manuel Agnelli, è vero. Tra l'altro è un gruppo che mi piace tantissimo, mi ha ispirato molto. Un po' perché lui canta in maniera viscerale. Esattamente. Poi i testi sono molto introspettivi, sono anche particolari. E la musica sotto è bella, è coinvolgente. Sì, ma proprio il tuo approccio all'inizio, proprio nel cantato, chiaramente è una mia sensazione, ma questi collegamenti suona sempre dei collegamenti ideali e basta. Penso è assolutamente vostro, la musica è assolutamente vostra al 100%, però mi è venuto questa idea. No, è vero, ricorda leggermente, insomma. Pezzo era molto bello, molto interessante. Qua l'avete eseguito con molta grinta e poi avete fatto lo spot anche nostro e anche vostro. Cosa... Sì, in mezzo ci sono questi accordi che... Sì, che vanno. Noi non vi abbiamo pagato però. No, assolutamente. No, non ci mancherebbe. Però vi aspettiamo ancora comunque. Certamente, c'è ancora band completa l'altra volta. Magari il prossimo disco. Con la band completa la prossima volta, quando sarà... Esattamente, quindi questa era l'ultima traccia dell'album, non l'ultima traccia nostra, cioè l'ultima traccia al vivo, no, abbiamo ancora circa una ventina di minuti per parlare, per discutere, per cercare di capire il discorso. A proposito di capire, ti ricordi qualche data che farai con la band adesso? Sì, allora noi abbiamo fatto intanto il disco è uscito l'anno scorso, quindi prima dell'estate, e abbiamo fatto un tour estivo molto bello, abbiamo fatto una ventina di date in Emilia Romagna e sì, sono andate molto bene come feedback dal pubblico. Certo. E, quest'inverno ci siamo un attimo fermati, ma non perché non volevamo suonare dal vivo, che per noi è fondamentale, sia per caricarci che per vendere anche il nostro CD, ma perché... Quest'anno, insomma, che essendo già passato un anno dall'uscita del disco, volevamo comunque mettere sul piatto della bilancia anche qualcosa di nuovo, per far vedere che comunque noi non ci fermiamo mai. Esattamente. Ecco. Abbiamo fatto un intro, stiamo lavorando su due pezzi nuovi, abbiamo fatto degli arrangiamenti. E adesso vi suoniamo il 5 di giugno al Tequila Sunrise, che è un locale che è in spiaggia a Marina di Ravenna. Certo. Invitiamo tutti, cogliamo l'occasione. Certo. E poi ci sarà una data anche il 16 di luglio, che è una specie di... è un sabato, è un Woodstock provinciale praticamente. È una festa che fanno in un campo grandissimo con un bellissimo palco e ci saranno migliaia di persone e lì suoniamo con i Super Lover. Quindi abbiamo la possibilità di diffondere la nostra musica a tutti. Certamente. E un'altra cosa, dove possiamo trovare il disco? Sul vostro sito oppure possiamo comprarlo anche nei negozi di dischi? Potete ordinarlo online, scaricarlo online su iTunes e vari digital store tipo iMusic, Amazon, certo, principalmente iTunes, oppure ascoltare i brani in streaming su MySpace, su United. E se uno lo vuole fisicamente? Se uno lo vuole fisicamente può mandare un'email a thesuperlovers@gmail.com. Oppure venirlo a comprare nei vostri concerti. Perfetto. Nella pagina di MySpace comunque c'è il calendario concerti, quindi okay. Anche perché diciamo che oggi abbiamo fatto una cosa abbastanza insolita, nel senso che quando fai un disco autoprodotto devi spendere dei soldi. Certo. E soldi da buttare via non li ha mai nessuno, no? Chiaro. E ci sono tanti soldi da spendere per il disco, se vuoi fare le cose fatte bene. Potevamo benissimo fare una cosa, metterla online e basta, solo coi pezzi. Invece abbiamo fatto proprio un packaging, come avete potuto vederlo anche voi, un packaging comunque curato, nelle foto c'è un digipack, ci sono foto, idee, c'è un bel bootleg dentro che è una Moleskine dove io scrivo i testi, l'ho riprodotta in versione cartacea per il disco. Curato perché molto, secondo me oggi uno che compra il disco è comunque un appassionato che ancora vuole avere il CD, che non si scarica il pezzo e basta, ma vuole avere il CD lì nel suo armadio, vuole averlo lì nella sua vetrina, lo vuole toccare con mano, lo vuole consumare, quindi abbiamo voluto farlo appositamente perché noi siamo tra quelli lì. Certo, sono certo. Pienamente d'accordo. Vi faccio la sorpresa, ragazzi, ciao Vanessa in linea, ciao Vanessa. Ciao Vanni. Ciao Vanessa. Ciao Vanni. Come stai? Ciao Fabio. Bene, bene. Stai suonando? Stai facendo qualche live per caso? Sto facendo la tournée con Cremonini. Ah, con Cesare Cremonini. Ce l'hai lì vicino magari? No. Bravissima Vanni. Ti hanno fatto i complimenti tutti per come hai cantato nel disco. Sì, grazie. Ma anche loro sono bravissimi, secondo me. Mi ha fatto molto piacere partecipare a questo lavoro. Immagino. Davvero. Hai una voce molto sensuale nel disco. Grazie. Allora, è stata anche una richiesta. Anche a telefono. Diciamo, no, è stata anche a telefono. No, a telefono no. No, loro mi hanno chiesto espressamente anche di, appunto, cioè, dovesse venire fuori questa parte per adeguarmi anche allo stile loro, giustamente. Certo. Che sono dei Super Lovers. Sì. Dei super amanti. Esatto. Quindi ti sei trovata benissimo musicalmente con loro, insomma. Sì, anche perché non solo c'era un aspetto umano che comunque già li conoscevo e c'era una stima reciproca e in più perché musicalmente mi sembra un bellissimo progetto che ha, dove loro si vede che hanno messo proprio tutto quello che potevano dare, e quindi dopo uno lo fa con piacere di poter dare qualcosa, un contributo. Certo. Ed è una cosa che rimane. Loro ci hanno decantato delle tue qualità enormi di vocalist. Beh, vi dico solamente che fa il tributo a Mina in maniera eccelsa, quindi insomma che non è poco cantare i pezzi di Mina. No, difficile, molto difficile. No, è una cosa che, cioè, ovviamente è una cosa ambiziosa, che uno pensa, ma come si permette di fare una cosa del genere? Però io ho sempre fatto poi a mio modo le cose, quindi non è uno scimmiottare, ma è un interpretare, certo. Esatto, esatto. Vanessa, ti aspettiamo qui a Padova se ti capita. Guarda, sarò con Cremonini vicino a Padova. Sì. E se, non so, se ce lo porti qui assieme, cantate tutti e due insieme. No, questo non lo posso promettere. Posso Noi... dire magari il giorno che c'è. Sì, insomma, sì, sì. È a luglio, si tratta di luglio sicuramente. Ed è... a Piazzola del Brenta. Sì, Villa Contarini, cos'è? Villa Camerini. Anfiteatro Camerini. Camerini, scusa, no, Contarini. Camerini. Esatto. Sì, è una bellissima. Caso, se mi interessa. Sì, ma lo sapevamo già che veniva da queste parti, sai? Ecco. E magari ci incontriamo. Certo. Grande Vanni. Va bene. Salutami tutti. Grazie, grazie mille. Un bacio, Vanni. Ciao. Ciao. In bocca al lupo per la tournée con Cremonini, allora. Grazie, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Benissimo, abbiamo trovato anche Vanessa. Non me l'avevi detto che era in tournée con Cremonini. Beh, una turnista, una corista, che mi ha fatto anche Mingardi, ha fatto tante cose interessanti. Ma ha fatto qualcosa da lei come solista? No, lei come solista no, ecco. C'è questo aspetto qui, ci sono tantissime cantanti molto bravi vocalmente che accompagnano tanti artisti, tanti cantautori, che però non hanno mai, o non hanno niente da dire, o forse non hanno il tempo anche di mettersi lì a fare qualcosa, forse perché devi essere veramente mosso da qualcosa di tuo, perché non è che ti devi aspettare per forza qualcosa. Certo, perché fare la turnista, cioè la folklorista in tanta band, con tanti artisti, forse ti preclude a determinate tue idee, non hai tempo, come tu giustamente, di fare qualcosa da sola. Beh, dico anche una cosa, spezzo una lancia a favore dei cantanti, nel senso che essendo cantante io come lo è la Vanessa, il nostro è un ruolo un po' che ha due facce, nel senso che da cantante o sei famoso o non sei nessuno, non c'è una via di mezzo, cioè puoi fare la corista come fa lei magari a qualche cantante famoso, però fai più fatica a uscire, quando esci magari fai il botto. Invece un musicista può fare tante tournée, può fare tanti lavori in studio, può fare tanti arrangiamenti, rimane sempre dietro le quinte, però è sempre in mezzo, diciamo, al giro importante, ecco. Da cantante, insomma, c'è un po' questo patto che o va o lo spacca. Sono d'accordo, però tu sei cantante autore, è diverso. Sì, è diverso. Poi non sempre però il cantautore è quello che vedi in TV, è quello di cui vedi il video, o è quello che passa il pezzo per radio, perché basta pensare in maniera molto elementare, oggi se entri in un negozio di dischi ci sono 1000 dischi, quanti ne conosci? Ne conosci pochissimi. Sì, sono d'accordo. E magari ne prendi uno a caso ed è bellissimo e meriterebbe veramente più successo, più visibilità, e non certo. È così. Ma infatti la musica non la devi fare con l'intento di diventare famoso, la devi fare per lasciare una traccia, perché hai qualcosa da dire. E poi se sei fortunato sei famoso, ne puoi creare venga. Anche un business, però certo. Insomma, devi avere anche lo spazio per farti sentire, però. Sì. Ma qui ci abbiamo sempre lo spazio. Infatti per noi è bellissimo essere qua, perché... specie per i non VIP, diciamo, ma anche per i VIP. La radio secondo me non ha confini. No, questo è vero, assolutamente. Certo. La radio è meravigliosa in tutti i sensi, come diceva tanti anni fa Finardi, è ancora una verità assoluta secondo me. Okay. Ci ascoltiamo qualcosa dal disco, facciamo una breve pausa o volete suonare dal vivo? No, ascoltiamo Orange Game, che è la traccia durissima, che è una traccia potente, una traccia che è apprezzata molto dai fan al vivo perché trasmette tanta energia. È una canzone che... Traccia numero 9, mi pare. Sì, la traccia numero 9. È una canzone che parla di una persona che ha un vizio, un vizio che non condividiamo, che diciamo che è il vizio della cocaina. È una persona che mi ha fatto conoscere la cocaina da un certo punto di vista, nel senso che vedendo lei come viveva questo rapporto con la cocaina, mi sono reso conto di quanto non mi appartiene, pur essendo uno che non ha mai fatto uso di droghe, perché la viveva come un gioco, quando invece è una cosa molto pericolosa, è una cosa comunque deleteria, assolutamente deleteria, cioè per l'organismo, certo, per l'umore, per tutto. Infatti dice, descrive un po' quello che vedevo io che succedeva, e dice: buongiorno baby, un'altra notte fottuta, che sarebbe poi un'altra notte pazza. E la testa pesa come una pietra, e il tuo umore è sotto i piedi, e continua a scendere, e tu ti ripeti davanti allo specchio che è stata l'ultima volta che hai giocato a questo Orange Game. Orange Game è l'anagramma di un gioco, perché è un po' un gioco. Orange è un colore che poi c'è una cosa che non voglio dire, insomma, ecco, però diciamo che è un colore, sì, Orange, che potrebbe anche essere il nome di una persona, sì, ma sì, è un colore. È un colore, un colore. E poi dice: ma stanotte è venerdì, non ci sono freni, stanotte bisogna divertirsi, il divertimento è questo. E quindi benvenuto al party, benvenuto all'Orange Game. Poi dice: danza mentre l'eccitazione sale, perché la droga comunque stimola l'eccitazione, dove uno sconosciuto parcheggia la sua lingua nella tua bocca, di cui non sai neanche il nome, proprio perché ha le redini o conosce le regole dell'Orange Game. Quindi niente, è stato scelto appositamente questo giro duro, perché nel pezzo c'è anche un punto in cui io faccio un verso tipo Puh! Così, che è proprio come un gesto di disprezzo, dove sputo su questa cosa, ed è stato scelto proprio questo pezzo cattivo perché deve arrivare nello stomaco il messaggio che la droga e soprattutto la cocaina è una cosa che fa male molto. Ok. Welcome to the party. Welcome to the party. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito questo pezzo durissimo, veramente duro, perché doveva essere duro, doveva essere così, doveva essere formato così, doveva dare più un colpo allo stomaco, come hai detto te, praticamente. Sì. Esattamente. Abbiamo il telefono, abbiamo Alessandro. Alessandro, ci senti? Sì, ciao a tutti. Bella Ale, ciao. Ciao. Ciao, bella bro. C'è un disturbo. Ho già capito chi è. Fabio, grazie. Ok, vai Alessandro. Dimmi tutto. Ma ho pubblicizzato il fatto, Ale, che hai messo Far Away From You nella suoneria del telefono quando ti chiamo, e che sei stato uno di quelli che ha sentito i pezzi per la prima volta, che li ha vissuti anche nella composizione, perché ogni volta venivo ti facevo sentire qualche idea che si stava sviluppando, ecco. E che sei uno dei nostri fan, insomma, che tutti i concerti c'è. Addirittura lui ci ha fatto, una sera si è presentato nel camerino di un concerto, in un locale che si chiama Barré. Si è presentato e ci aveva fatto come sorpresa le spille. Ah. Le spille col nostro logo da dare in giro e da mettersi, per dire, insomma, ecco. Come entrata del concerto. Era il primo concerto che facevano, praticamente. Sì, era uno dei primi. Uno dei primi. Infatti io mi sono subito innamorato di Far Away For You, che l'ho messa come suoneria quando lui mi chiama. Ah, perfetto. Quindi è a posto. Tu sei un collega, sei un DJ anche te? Io suono i dischi, a differenza sua che lui canta, io invece metto su i dischi nei locali un po' qui in zona da noi in Riviera. Tra poco ci sarà il boom lì in Riviera, eh? Oh, è già incominciato da Pasqua, dai, da un bel po' che è cominciato. C'è già un po' di frullo di gente. Immagino. Tu cosa fai, house? Io sì, faccio house, deep, e dipende anche dai locali. D'estate faccio una serata il mercoledì sera a Cesenatico, dove faccio solo e esclusivamente hip hop e R&B. Però prevalentemente faccio deep e house. Però ogni tanto il nostro disco lo mette su, come alla fine lo mette su come ascolto. Quello ci sta sempre, o all'inizio o alla fine, quello ci sta sempre. Anche come stacco a metà serata tra un pezzo house e l'altro, qualcosa di rock, gliel'ho avuto sempre io, sempre. Bene. Ci sta, è una cosa diversa. È una bella pubblicità, Alessandro. Sì. Super Lover. Appunto, Super Lovers. Ormai è un marchio, una garanzia, Super Lovers. Sì, ormai è un marchio, una garanzia, conosciuti da noi qua in Riviera da tante persone. Bene. Poi lui, David, si sa anche fare, molto bravo nella pubblica relazione. È un public relation praticamente. Sì. Molto bravo, sono tutti quanti molto bravi. Qua sicuramente hanno fatto due pezzi, cioè i pezzi acustici che hanno fatto si sono comportati benissimo, e quindi sicuramente lo saranno anche dal vivo quando tu li vedi, chiaramente. Sì. Adesso ti spariamo Far Away From You acustica qui dalla radio. Guarda, infatti mi è dispiaciuto non esserci, non sentirvi in streaming, perché ho provato due volte ma non sono riuscito a collegarti. Perché non sono a casa al computer, ma sono in giro col telefono. Okay, ho provato a collegarmi in podcast, ma non sono riuscito. Comunque il programma va in podcast. Sì, fra qualche giorno il programma va in podcast, quindi lo potrai scaricare, lo potrai sentire quando vorrai. Insomma. Ah, ok. Infatti ho provato in live, ma non sono riuscito. Però con questo sistema poi fra qualche giorno potrai risentire tutto il programma, tutto il live dalle 10 a mezzanotte questa sera. Quindi mi sparo Far Away For You in live? Sì, adesso. Vuoi sentirla? Vuoi sentirla? Resti collegato? Sì. Allora, ok, li facciamo partire subito. Vai. To you, I found everything I need. Following you, I found answers to my why. Now you lie. washing away your last bad words. I can't believe everything's still burning in my hands. Your lies, far away from you. Far away from you. Days are running, but everything I think about you, and I run into wherever nothing reminds me of you. Sentito allora. Grande animo. No, no, ho sentito magari. No, veramente ogni volta ho pelle d'occhia e puntualmente prendo i 5 da Rimoroso perché ce l'ho perennemente in macchina. Sì, sì, è vero. Sono sempre in macchina. Salutiamo la Chiara, che è la sua morosa, che fra pochissimi mesi darà alla luce un bimbo di nome Brando. Bene, bene. Chissà che non faremo una canzone, la chiameremo Brando. Ecco. Beh, una ventina di giorni. Ah, proprio vicinissima, insomma. Sì, sì, sì, sì, una ventina di giorni, poi mio figlio nascerà. Allora l'amichetto di merende di Grace. Ecco, esatto, esatto, io. In bocca al lupo allora. Grazie, grazie. Ciao Ale, stami bene. Grazie, grazie a voi, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Verrò a ballare lì da te allora, va bene? Va bene, non mancherò, va bene, perfetto. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buona serata, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Benissimo, abbiamo trovato anche Alessandro, quindi una cosa molto positiva, e dal vivo... che oltre alla suoneria del telefono ha fatto una nuova suoneria del telefono perché l'hai sentito dal vivo. Mi viva di così. Esattamente. 23:49 quasi. Sì, facciamo? Facciamo un altro pezzo dal disco, cosa volete fare? No, facciamo un pezzo dal vivo, dai. Facciamo un pezzo dal vivo. Che cosa allora? Facciamo un pezzo che dura un pezzo più lungo del disco, che si chiama I Miss You, che ricorda un po' le sonorità di Jeff Buckley, è un pezzo introspettivo, parla di una persona che viene lasciata da questa ragazza di cui è follemente innamorato e quindi si pone una serie di domande e cerca di capire dove ha sbagliato. E poi a un certo punto si confronta con Dio, con gli amici e gli dice la sua verità. Infatti nel pezzo dice amici, Dio, ho una notizia per voi, l'amore non esiste, l'amore non conquista ogni cosa. L'amore ti mangia dentro, l'amore ti consuma dentro, e poi ha sempre la speranza nel ritornello, e infatti sono accordi anche felici, sono questi accordi qui che sono anche felici, dove dice chissà cosa il destino ha preparato per me, posso avere la chiave dei tuoi sogni, posso leggere i tuoi sogni, voglio farne parte. Questo è un pezzo bellissimo che mi emoziona sempre cantarlo e si chiama I Miss You. Yeah. miss you, babe, I miss you, babe, I miss you. Where are you now? I need you, babe, I need you, babe, I need only the things. Something is still burning inside. What is changed between us? I miss you, babe, I miss you, babe, I miss you. Where are you now? Where's your heart? Where's your mind? What's up? It's in me. Pictures from a perfect summer. It's not far, it's not so far. What fate is chosen for me? Can I have the key to your dreams? Oh, and alone will I have to wait for the call? Just a message on my phone. I miss you, babe, I miss you, babe, I miss you. Where are you now? I need you, babe, I need you, babe, I need a simple heart, a stupid heart. Why this cold silence? Why? Remember the heat and the rainy night, and your words, they make me shiver. It's not far, it's not so far. Fate is chosen for me. Can I have the key to your dreams? Oh, when I long, but I have to wait for the call. Just a message on. Luca, ti sono piaciuti? Veramente dal telefono non è che si sentiva molto. Non si sentiva moltissimo? Non si sentiva molto. Non si sentiva. Mi senti adesso? Ciao, come? Luca! Salve, buonasera. È il nostro Big. Chi sarebbe a dire il vostro Big? Perché il suo studio si chiama Big Studio e per quello è il nostro Big. Abbiamo registrato il disco da lui. No, attenzione, l'origine è il mio cognome. Che è Bignardi, le prime tre lettere sono Big. Ah. Che in America invece lo dicono Big Nardi. Bello, bello. Ti abbiamo disturbato, Luca? Stavi dormendo? No. Bene, benissimo. Beh, hanno fatto un bellissimo pezzo. Questo è il pezzo più interessante dell'album, più complesso, più più difficile, l'hanno eseguito bene. Poi Davis ha dato una forza incredibile qua dal vivo, che ha spaccato il microfono quasi, insomma. Luca, è stato difficile lavorare con loro? Non direi. Ci siamo trovati anche come tipo di feeling, di sensazioni. Sì. È venuto tutto naturale. Quindi eravate sulla stessa lunghezza d'onda, insomma. Yes. Direi di sì. È stato anche molto, molto severo, nel senso, mi ricordo che quando ho registrato la voce sentiva delle cose che non sentivo neanche io, ho un orecchio incredibile. Parlo anche di imperfezioni, di pronunce, di stonature, di cali, insomma, di voce. Ecco, è stato anche un maestro, insomma, di. T'ha sistemato in certe cose. Di esperienza, sì. Mm-hmm. Luca, è così? Io sono pignolo di natura, purtroppo. Mi disegnano così. Ah. Pronto, mi senti? Sì, pronto. Si sente poco, da lontano, come fosse da lontano. Beh, sì, ma è stata una cosa positiva in ogni caso questo vostro rapporto musicale, decisamente è uscito benissimo, il disco è molto bello, è aranciato bene, costruito bene. Il merito è molto loro, perché hanno costruito le canzoni e le hanno costruite loro. Io da quel punto di vista non ci ho messo molto. Però hanno detto qui in radio, Boluca, che il disco suona bene, suona da paura, dei bei suoni, insomma, è vivo. Pronto? Ti senti? Pronto? Era una domanda? Cioè non, sì, sì, è una domanda, sì. È anche un'affermazione. Sei contento dei suoni, di come è venuto il disco? Sì, è molto vivo, sì. C'ha quel leggero grezzo che dà l'emozione giusta. Giusto. Bene, esattamente. Hai dato il cerchio in una sola frase, mi pare ottimale, no? Cosa dite? Poi tra l'altro, soprattutto in questo pezzo che abbiamo fatto, che è Miss You, sì. Un brano lungo, un brano con probabilmente più tracce, sì. Più elaborato, Luca veramente ha dato la marcia in più, perché quando gli ho dato, insomma, tutte le chitarre finite, ho pensato, oddio, forse ho fatto un po' troppa roba, non so quello che tira fuori, infatti me l'ha detto, in Miss You è troppo, e è riuscito a mettere tutto, però nella giusta misura, e hai messo proprio il pezzo dove secondo me più si sente la sua mano praticamente da questo punto di vista. E poi ha fatto delle batterie, perché c'è da dire che le chitarre le ho fatte da me, la batteria invece l'abbiamo proprio registrata lì da lui, e in un giorno solo di registrazioni tutti insieme è riuscito a dare un sound incredibile. Quindi faccio un po' di pubblicità al suo studio, però insomma, Big Studio è una garanzia. Merito anche del batterista. Certo. Si è fatto 40 take in un giorno, era morto. era da ricovero. Ma letteralmente. Sì, tutti eravamo morti. Però avete fatto un bel prodotto, ecco, importante. Lo so che la stanchezza, però la stanchezza si supera, 40 take si superano quando c'è un prodotto buono, chiaramente. Non è così? Luca, no. Pronto? Dimmi. Ti sentiamo poco, cioè. Io quando sento le sovrapposizioni di voci non capisco più nulla. Ah, ho capito. bene. Dai, va bene, Luca. Grazie mille. Grazie mille di tutto, veramente, dal cuore. Grazie a voi. Ciao, Luca. Ciao, Luca. Ci sentiamo. Ciao, grazie. Ciao. Bene, va benissimo questa finale con la telefonata con Luca, va benissimo questa. Sono 23:59, quindi abbiamo finito, Agostino. Sì, facciamo un pezzo live e poi ci salutiamo. Certamente. Assolutamente un pezzo live. Finiamo con un brano che... No, ci salutiamo adesso. Dopo... Ah, subito? Sì, immediatamente. Ah, okay. Allora aspetta, prima di partire con il brano, non abbiamo mai detto dove trovate il disco? Sì, ripetiamo un secondo. Lo trovate su iTunes. iTunes e altri digital portali, store come Amazon ad esempio. Ma principalmente The Super Lovers on the Road to You. Okay. Esatto. E ricordiamo i siti, Facebook eccetera? Facebook, c'è la pagina su Facebook, su MySpace. myspace.com/thesuperlovers e la nostra email thesuperlovers@gmail.com e anche i concerti, quando i prossimi concerti si leggono su Facebook andremo a comprare il disco. Una cosa importante se volete, lasciate una recensione su iTunes. Ah, ok. Sarebbe, se qualcuno di sapere cosa ne pensate, ecco, insomma. Scrivetelo, così è più facile per noi capire se stiamo andando nella giusta direzione. Nella giusta direzione. Ma sicuramente, secondo noi sì. E quindi noi abbiamo fatto del nostro piccolo, e poi chiaramente si potrà ampliare il nostro piccolo in altri sistemi. Grazie di essere venuti, di aver aderito a questo invito. Ci ha fatto molto piacere avervi qui. Ovviamente Blu Radio Veneto vi ringrazia e vi aspetta per il prossimo disco, magari se lo fate. Sì, esatto. Certo che lo facciamo. È in cantiere. Bene, bene. Allora vi aspettiamo per il prossimo. Certamente. Certo. Ok, allora io vi do, per quanto mi riguarda, l'appuntamento domani sera. Ci sono anch'io, sì. Ma dai. Di caso. Però io avrò un ruolo molto piccolo stavolta, giustamente. Abbiamo un ruolo, cioè ci sarà qualcosa di interessante. Facciamo qualcosa di diverso. Sì, facciamo qualcosa di diverso. Non sarà un live, ma sarà un pseudo live. Beh, prima comunque abbiamo una telefonica, sì, esattamente, con Silvia Manco, che è una jazzista, una pianista di Roma, che ci farà sentire il suo disco, però telefonicamente, perché ha avuto un problema con il concerto, ma poi comunque ne parleremo domani sera. Quindi l'appuntamento è alle ore 21. Agostino vi ringrazia dell'ascolto di Blu Radio Veneto, assieme a Maurizio ovviamente. Ciao. Ciao, e quei Super Lovers li salutiamo con quale pezzo? Con un pezzo che si chiama Sunday, che recita: tu sei nella mia gioia, sei nelle mie scarpe, nelle mie regole, anche senza regole. Sei nei miei alti, nei miei bassi, sei sul sapore della mia bocca. Grazie ai Super Lovers, buonanotte a tutti, e grazie ad Agostino che ha fatto un'ottima regia anche con i collegamenti telefonici, che non era semplice. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. this song it's for you. That's still my breath. Let me hold you. You can feel you are here in my pain, here in my joy, here in my shoes, here in the roots, oh, that roots, here in my ups, here in my downs, here in the flavor of my. Rock Wave, l'onda del rock.